mejor a ti. Tú que me llamabas Superman, vedi sono qui, piangere per te. Sarà che questa storia è tra me e te. La sento sulla pelle fino in fondo al cuore. Ma non pensavo saresti andata via. E sì, lo so, è solo colpa mia. Perché poi tu ti sbagli, nella vita non ne fai. Come adesso che non parli, ti alzi, prendi e te ne vai. Se piangere servisse a farti stare insieme a me, piangerei tutti i giorni perché ho bisogno io di te. Puoi darmi del banale, ma farei tutto per te. Sono innamorato, sono niente senza te. Non fa niente se per te essere dolce è difficile. Se torni qui da me ti regalo tante fragole. Servisse a farti stare insieme a me, piangerei tutti i giorni perché ho bisogno io di te. Puoi darmi del banale, ma farei tutto per te. Perché sono innamorato, sono niente senza te. Non fa niente se per te essere dolce è difficile. Torni qui da me, ti regalo tante fragole.